Te l'hanno detto mai che sei di una dolcezza disarmante? Che la tua voce tonda ed accogliente scioglie i nodi e le distanze? E dopo un po' che parli mi dispiace ma non sento più niente. Io sento solamente il suono d'abbandono dei finti muscoli d'acciaio che mi toglievano il respiro. Ed ora sento che ti amo. Per caso visto, signorina, una panchina che volava con due piccoli viandanti. Sì, sono abbracciati forte, si son dati un bacio grande, son volati all'orizzonte. Dicono che avevano le chiavi per volare dentro misteriose stanze. L'ombra poi si illumina la luce con il buio più splendente. Dove i sassi son diamanti, le corde son stelle filanti. Aumentiamo i sensi fino a farli diventare immensi. Se ti ricordi bene, nella vita appena andata ero un po' meno, vero? È vero, ora giochiamo alla danza della mano, alle dita che si intrecciano alla vita e scendono in salita e sentiamo che ci ha. Per caso visto, signorina, una panchina che volava con due piccoli viandanti. Si son dati un bacio grande, son volati all'orizzonte. Dicono che avevano le chiavi per volare dentro misteriose stanze. Dove brilla forte l'ombra, poi si illumina la luce con il buio più splendente. Dove i sassi son diamanti, le corde son stelle filanti. Sente il cielo alla fine delle dita e non temere la salita e vai.